GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ansaldo Energia conferma, c'è l'interesse per lo stabilimento Varzila di San Dorligo della Valle. Potrebbero essere trasferite qui la produzione già in corso a Genova di microturbine e quella che doveva partire in Liguria di elettrolizzatori e altri macchinari. In ballo 100 posti di lavoro almeno, una prospettiva per Trieste, una preoccupazione per i sindacati liguri. 150 espositori, 300 marchi rappresentati. A Udine ha aperto i battenti Casa Moderna, 70ª edizione. Le imprese del settore sono preoccupate per il rallentamento dell'economia e dei mercati del Nord Europa. Il sistema fieristico teme lo spostamento sulle piattaforme web di molte occasioni di confronto fra chi vende e chi compra. Incendio ieri a tarda sera in una struttura residenziale nel rione di Gretta a Trieste. 6 persone sono state visitate per i sintomi di intossicazione, aveva preso fuoco un materasso, sgomberata una palazzina di 4 piani. I Comacose sciolgono le vele alla Barcolana, concerto e festa ieri sera fra le rive e Ponte Rosso per la musica che ha attirato ragazzi ed ex ragazzi, mentre nel mare piano piano aumentano già le barche in vista della regata di domenica 8 ottobre. Nessuna festa, si pensa già ai prossimi appuntamenti in campo. Attilio Tesser, soddisfatto per la grande prestazione con cui ieri sera la Triestina a Fontanafredda ha battuto la capolista Mantova per 4-1. Ora l'attenzione è per l'appuntamento di Coppa Italia di martedì. Nel basket, al via oggi il campionato di A2, per primi scendono sul parquet i Ducali di Gesteco che alle 20 affrontano Verona. Domani tocca ad Apu, mentre Pallacanestro Trieste giocherà mercoledì contro Orzi Nuovi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Eva Ciuc e Antonio Cagliazza. Per la prima volta dunque Ansaldo Energia, in un comunicato ufficiale diffuso ieri, ha fatto riferimento allo stabilimento Varzila di San Dorligo e alla prospettiva di un'acquisizione. Nel corso di un confronto sindacale avvenuto a Genova, infatti, l'azienda ha espresso la disponibilità al coinvolgimento nel piano di reindustrializzazione, sottolineandone le opportunità. Ma sono da registrare anche le preoccupazioni dei sindacati liguri. Doveva essere convocato entro settembre il tavolo ministeriale per discutere del futuro industriale dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra che Varzila intende abbandonare a seguito della decisione di smantellare la produzione di motori in Italia. La scadenza è arrivata senza che alcun incontro si sia svolto o sia stato programmato, ma questo di per sé non è un cattivo segnale a sentire le parti interessate alla vicenda, anzi trapela una relativa tranquillità, se non proprio un cauto ottimismo sul buon esito dell'operazione che coinvolge in cordata Mitsubishi e Ansaldo Energia come acquirenti del sito nell'ambito dell'idrogeno. Su Varzila si sta continuando a lavorare e sono fiducioso, ha detto rispondendo ai giornalisti martedì il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Secondo le informazioni in mano alla Giunta è già iniziata la due diligence, ovvero quella fase di approfondimento di dati e informazioni che precede un eventuale accordo. Dalle aziende si conferma che il dialogo va avanti. Ieri, per la prima volta, una delle due parti interessate nella trattativa lato acquisto è uscita ufficialmente allo scoperto. L'amministratore delegato di Ansaldo Energia, Fabrizio Fabbri, incontrando i sindacati, ha detto che quella di Trieste è un'opportunità che stiamo verificando e che potrebbe generare una nuova filiera produttiva nel nord-est, mantenendo allo stesso tempo tutte le attività oggi presenti a Genova. Le parole di Fabbri mirano anche a rassicurare i sindacati del territorio, i quali temono che l'operazione Varzila crei posti di lavoro a Trieste in alternativa alla Liguria, in un momento piuttosto negativo per l'azienda di Stato che continua a bruciare cassa ed è alla ricerca di nuove commesse. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. 70esimo compleanno per Casa Moderna, la fiera dell'abitare che si è inaugurata stamattina a Udine che durerà fino all'8 ottobre. 150 espositori, 300 i marchi rappresentati. Tutto cominciò nel 1953 con le speranze e gli entusiasmi di quell'epoca pionieristica. Oggi il settore si confronta con i continui cambiamenti e le incertezze dei mercati. Casa Moderna punta ad essere il punto di riferimento per le aziende e per migliaia di visitatori, proponendo soluzioni, idee e proposte concrete per la casa. Abbiamo sentito il presidente di Udine Gorizia Fiere, Antonio Di Piazza, che ci ha raccontato le principali novità, ma anche come la realtà virtuale sta mettendo a rischio il mondo delle fiere. La novità è che la fiera, nonostante i suoi 70 anni, è ancora in forma, è ancora inossidabile, è ancora presente sul territorio ed anzi si rinnova anche grazie alla splendida piazza che abbiamo avuto modo di inaugurare e di vedere. 70 anni fa questa fiera è nata da un'intuizione degli artigiani. Chi espone adesso e con che aspettative? Gli artigiani sono ancora presenti, sono in molti, hanno un loro stand al padiglione numero 7, quindi sicuramente allora ci fu la intuizione, ad oggi invece c'è una continuità, una voglia di essere presenti e di dare un senso ancora più forte del territorio della nostra regione. Gli altri sono molti espositori, sono 150 espositori, quindi in aumento rispetto all'anno scorso, e che portano fino a 300 marchi presenti qui in fiera a Casa Moderna. Quindi direi una soddisfazione e una continuità per questa fiera. Con la realtà virtuale che aumenta, quanto è difficile organizzare e quanto hanno ancora un senso le fiere? Lei sta toccando un punto molto dolente. Sicuramente la realtà virtuale ci limita molto, o meglio, non permette o non fa venire la voglia alla gente di frequentare le fiere. Però la volontà di esserci è fondamentale, perché io ritengo che il contatto umano, il contatto fisico vada al di là di tutto quello che è virtuale. Quindi la possibilità di toccare con mano, vedere gli oggetti e soprattutto mettersi in comunicazione con chi espone direttamente, credo che sia un valore aggiunto per le fiere, benché, è inutile ribadisco, negarlo, è un periodo difficile anche per tutte le fiere. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Ottima la pagella del Friuli Venezia Giulia, che secondo la CGA di Mestre è tra le regioni italiane più virtuose per quanto riguarda evasione fiscale e abusivismo edilizio. In Friuli Venezia Giulia i cittadini e le imprese pagano regolarmente le tasse e sono tra i più virtuosi a livello nazionale. Inoltre siamo la regione in cui l'abuso edilizio è molto meno diffuso rispetto alla media italiana. Le valutazioni sono dell'ufficio studi della CGA di Mestre, che ha analizzato quanto i condoni abbiano contribuito negli anni alle casse dello Stato. Nel condono introdotto nel 1985 dal governo Craxi fu incassato solo il 58% del gettito previsto, quello approvato dal governo Berlusconi 1 il 71% e quello istituito dal Berlusconi 2 solo il 34,5%. E nonostante queste misure fossero state approvate anche con l'obiettivo di porre fine al fenomeno dell'abusivismo edilizio, i risultati ottenuti sono stati per la CGA insignificanti. Tra le regioni meno interessate alla piaga dell'abusivismo edilizio ci sono il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, ambedue con un livello del 3,3% rispetto al dato medio nazionale del 15%. La nostra regione e la provincia autonoma di Trento sono le più virtuose, dopo Bolzano, anche per quanto riguarda l'evasione fiscale. A ogni 100 euro di gettito incassato dal fisco, i cittadini del Friuli Venezia Giulia e di Trento ne evadono 10,2 euro. In Calabria vengono evasi 21,3 euro ogni 100 incassati, a Bolzano 9,3 euro. La cronaca, una palazzina sgomberata, 6 persone ricoverate in ospedale per i sintomi da intossicazione e per controlli sanitari. Una in particolare è in condizioni abbastanza serie. È successo a Trieste, nel rione di Gretta, dove verso le 23, in un appartamento al numero 16 di via Aquileia, ha preso fuoco un materasso. Il fatto è accaduto all'interno di una struttura residenziale. L'edificio di 4 piani è stato evacuato. L'incendio non ha assunto dimensioni importanti grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco sul posto con 2 squadre e un'autoscala, ma l'intenso fumo ha causato disagi e danni. I pompieri hanno concluso l'intervento alle 14:30, sul posto anche la polizia e i sanitari del 118. Come dinanzi a molte altre sedi della RAI, anche davanti alla nostra, in via Fabio Severo a Trieste, in mattinata si è svolta una manifestazione per chiedere la liberazione del ricercatore della Sapienza Khaled El Kaisi, cittadino italo-palestinese detenuto in un carcere israeliano. Dopo aver trascorso le vacanze con la famiglia a Betlemme, il 31 agosto Khaled è stato arrestato dai militari israeliani e ha un valico di frontiera con la Giordania, e da allora si trova in carcere ad Ashkelon senza alcuna accusa finora formalizzata. No ad un nuovo caso Zaki, uno degli slogan della protesta. A Trieste una trentina di attivisti di Salam, i ragazzi dell'Ulivo, ha svolto un presidio alle 10:30 dunque davanti alla nostra sede RAI. All'Istituto Tecnico Malignani di Udine, scuola di eccellenza anche in campo aeronautico, si è parlato stamattina di sicurezza e di come si svolgono le indagini dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo. La sicurezza in campo aeronautico e le inchieste dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Volo sono state al centro di un incontro al Malignani di Udine. Il legame tra l'istituto, scuola d'eccellenza in campo aeronautico e il volo, sia in ambito civile che militare, nasce sin dalle origini. Un istituto che ha portato avanti negli anni questo legame è oggi in grado di fornire figure professionali competenti in materia aeronautica. Tanti gli studenti che hanno gremito l'Aula Magna per sentire le parole di uno dei massimi esperti di sicurezza in volo e commissario straordinario dell'agenzia. Di passione e dedizione ha parlato agli studenti, ma anche delle fasi di investigazione dell'agenzia. Bruno Franchi, commissario straordinario Agenzia Nazionale Sicurezza al Volo. Si inizia di solito con un sopralluogo operativo, cioè si va sul luogo dell'incidente e si iniziano ad acquisire le prime evidenze. In parallelo si iniziano ad acquisire altre evidenze tipo di carattere documentale che riguardano ad esempio la storia dell'aeromobile, la documentazione relativa ai piloti e poi si possono iniziare, se necessario, a fare delle analisi. Mettiamo che sia un aeromobile di aviazione commerciale e ha a bordo quindi dei registratori di volo, scarichiamo nei nostri laboratori i registratori di volo che sono poi le cosiddette scatole nere. La differenza tra l'inchiesta che conduce la NSV, che si chiama inchiesta di sicurezza, e l'indagine che conduce l'autorità giudiziaria è sulla finalità. L'inchiesta dell'Agenzia Nazionale di Sicurezza del Volo ha soltanto finalità di prevenzione, quindi non accerta eventuali responsabilità, ma è un'inchiesta finalizzata a migliorare la prevenzione e quindi a migliorare la sicurezza del volo. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora vediamo com'è la situazione meteorologica. Il cielo è da poco nuvoloso a variabile sulla regione. Ecco le temperature registrate alle 11. A Trieste 23 gradi, il mare è quasi calmo e ha una temperatura di 23 gradi. A Gorizia 21,5, a Udine 22, a Pordenone 24,5, a Tolmezzo 21 gradi, Forni di Sopra 19,5, Tarvisio 18 gradi, Sappada 18,5, Piancavallo 19, sullo Zoncolan e sul Monte Lussari 14, a Grado 22, a Lignano 21 e nelle due località la temperatura del mare è di 21,5 gradi. Le previsioni nel pomeriggio: cielo in prevalenza poco nuvoloso sulla zona montana, localmente sarà possibile più variabilità. Soffieranno in genere venti di brezza, ma a Trieste potrà soffiare borino. Giornata decisamente calda per il periodo, con temperature massime estive soprattutto in pianura. Domani, domenica, cielo in genere sereno o poco nuvoloso per qualche sottile velatura. Soffieranno venti di brezza, borino fino al mattino sulla costa. La giornata sarà decisamente calda per il periodo. E quello che ascoltate in sottofondo è un pezzo dell'affollato concerto che ieri sera ha aperto le vele alla 55esima edizione della Barcolana. Sono i Coma Cose, il duo lombardo pordenonese che si è esibito in piazza Ponte Rosso in uno spettacolo affollato non solo da giovanissimi. La serata musicale, organizzata da Barcolana e dal comune di Trieste, ha preso il via alle 20 con un DJ set e poi alle 21:30 sono saliti sul palco i Coma Cose, che hanno richiamato anche tantissimi giovani e famiglie. Il concerto ha preso il via sulle note della loro Jugoslavia, che forse abbiamo sentito in sottofondo, e poi hanno cantato tutte le loro hit, dai due brani sanremesi, Fiamme negli occhi e La addio, alla hit estiva Agosto Morsica, fino ad arrivare ai primi brani degli esordi che li hanno fatti conoscere al grande pubblico. Ancora un po' di musica. La prima cicca me l'accendo all'alba, faccio due tiri sa di Jugoslavia, esco di casa che ho bisogno d'aria. E va bene, adesso l'abbiamo sentita Jugoslavia dei Comacose, passiamo al calcio. In Serie C la Triestina ieri ha travolto la capolista Mantova sul campo casalingo di Fontanafredda, 4-1 il risultato finale con una tripletta dell'attaccante argentino Facundo Lescano. Abbiamo raggiunto al telefono stamattina l'allenatore Attilio Tessere, gli abbiamo chiesto se hanno festeggiato il successo. No, nessuna festa, felicità in spogliatoio chiaramente per la prestazione e il risultato, ma poi basta, ora ci concentriamo alla Coppa Italia di martedì e poi serenate già da pensare. Questo campo di Fontanafredda sta portando veramente bene? Sì, mi spiace per i nostri tifosi che non possiamo essere a Rocco, che è casa nostra, questo è chiaro, sono 3.000 abbonati che rimangono a casa e questo ci spiace veramente, però effettivamente questo campo in queste due partite ci ha dato 6 punti, 2 buone prestazioni per raggiungere questi punti. Mister, un commento della partita, dove è stato il segreto di questa vittoria? Non è segreto, loro sono un'ottima squadra, giocano sempre, vogliono giocare dal basso con grande continuità, rischiano molto. Noi abbiamo rischiato di portarne un pressing molto alto, molto offensivo e ci è andata bene. Potevamo rischiare qualcosa perché se non pressi bene ti tagliano fuori, era un modo di giocare particolare e penso che il pressing asfissiante che abbiamo fatto sia quello che poi ci ha consentito di fare i gol e vincere la partita. In spogliatoio cosa ha detto ai suoi ragazzi? Niente, bravi, bravi, basta, è sufficiente così. Domani ricominciamo e ci concentriamo, come ho detto prima, alla Coppa Italia, perché deve essere una mentalità di fare i complimenti e resettare tutto, consapevoli cosa abbiamo fatto per raggiungere quel risultato e di applicarlo anche alla prossima partita. E come anticipato da Tesser, la Triestina scende in campo martedì per la Coppa Italia. Va in Veneto ad affrontare la Virtus Verona, la partita alle 20.45. In Serie A domani l'Udinese riceve allo stadio Friuli il Genoa, fischio d'inizio alle 15. E inizia oggi il campionato di Serie A2 di basket, che vedrà la partecipazione di 3 squadre della regione, Trieste, Udine e Cividale. I primi a cominciare saranno proprio i Ducali della Gesteco, che stasera alle 20 in casa affrontano la retrocessa Verona, una delle più serie candidate alla promozione. La Gesteco di Pillastrini si è rinnovata parecchio, pur mantenendo l'ossatura che ha permesso lo storico raggiungimento dei play-off la scorsa stagione. Una squadra costruita attorno all'argentino Redivo, che rispetto a tutte le altre per scelta schiera per ora uno straniero in meno. La Udine invece prova a centrare la promozione che sfugge da diverse stagioni partendo fuori casa. Appuntamento per la prima giornata a Nardò alle 18 di domani. Ultima a esordire la Pallacanestro Trieste, tra le favorite per la scalata alla categoria superiore. A causa della convocazione nazionale giovanile di un avversario, il match contro Orzinuovi è stato spostato a mercoledì alle 20.30. La squadra sarà presentata ufficialmente ai tifosi alle 18.30, assieme anche alle ragazze del Futurosa, che partecipano anche loro al campionato di A2. La storia di Trieste nel secondo dopoguerra. Al Teatro Verdi, alle 16, lo storico Luca Manenti terrà una conferenza dal titolo L'alabarda e il compasso, la rinascita della massoneria a Trieste, durante la quale racconterà la Trieste del secondo dopoguerra, guardando agli aspetti politici e culturali del territorio libero di Trieste. I programmi della nostra testata, nuova stagione di Est-Ovest, il settimanale della TGR sull'Europa centro-orientale. Le storie, conflitti, geopolitica, tensioni e slanci economici e cambiamenti sociali nella trasmissione che manda in onda domani su Rai 3, la prima puntata, l'anticipazione. I prezzi alti per gli italiani non hanno scoraggiato i turisti del nord Europa dal passare l'estate in Croazia, soprattutto in Istria. La Puglia, persi i turisti dall'Ucraina e dalla Russia, è stata riscoperta dai villeggianti degli altri paesi dell'Europa orientale. La vittoria dell'Azerbaigian in Nagorno-Karabakh, gli armeni costretti all'esodo o sarà vera pace? Da Odessa a Cagliari, il porto sardo meta delle navi che dal Mar Nero trasportano il grano ucraino nel mondo. I cavalli del massiccio dello Stolovi, liberati dai contadini negli anni 70, sono ora una delle attrazioni di questa zona montana della Serbia. Tutto questo nella prima puntata della stagione di Est-Ovest, domenica alle 11 su Rai 3. E sempre domani, ma alla radio, su questa frequenza, dopo il giornale radio del mattino, nuova puntata di Vita nei Campi, la trasmissione dedicata all'agricoltura e al giardinaggio. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, non della domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura un primo bilancio della vendemmia 2023, vendemmia che non sarà certo da ricordare. A seguire la storia di Angelo Floramo, che ci racconta le caratteristiche del frequentare nel Novecento le scuole di campagna, crescente successo anche in regione per la birra agricola, nonostante le carenze di luppolo locale. E ancora, per la rubrica della conservazione e trasformazione alimentare, la distinzione tra confetture e marmellate con una ricetta a base di zucca, per quella dei sommelier l'importanza dell'annata nella scelta di un vino anche per abbinamenti con il cibo, nella rubrica dei fiori una produzione tipica regionale con tanto di disciplinare il ciclamino friulano. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 21 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine la finale del concorso per Coto Canta. 12 finalisti in gara in una serata ricca di ospiti, al primo classificato un premio da 10.000 euro. Sono le 12.51 minuti e 24 secondi. L'assistenza tecnica è stata assicurata a questa edizione da Mauro Ciccarelli e da Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Per il momento noi ci fermiamo qui. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col giornale radio delle 14.30 all'orario del sabato su questa frequenza. Vi invitiamo anche a seguire gli aggiornamenti delle notizie sui profili Facebook, Twitter e Telegram della nostra redazione e sul sito, che si può raggiungere all'indirizzo rainews.it/tgr/fvg. Grazie della cortese attenzione da Eva Ciuc e da Antonio Cagliazza. Buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.